Rock FM. A Milano e presumibilmente in tutto lo stivale sono le 7:30. If you have a problem, problemi, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Cane burro rock and roll, pronto a servirvi la colazione, c'è l'Ariele, Fricantoni e Spadino. Buongiorno a Filippo da una Viareggio sotto la nebbia pesa. Milano il suo cielo, salutiamo Luca che ci fa sapere che Egle parte per l'India. Lei che è il mio cielo riempie di musica, hai capito? Che tenero. Bravo Luca, brava Egle. Egle parte, invece Simona ritorna. Dura iniziare dopo un mese in Cile. Meno male che ci siete voi. Simona da Genova, un abbraccio. Enrico 92. Ci fai complimenti per il risveglio. Ieri sera ho fatto il pieno di Morellino di Scanzano e stamani sono fresca come una rosa. Scherzo, Ale. Ciao Ale. Lore 66, oggi è dura caro Ariele, resta con noi, siamo in squadra insieme, come siamo in squadra anche con Sonny Boy Sergio, che chiede se può interagire con noi anche se è un uomo di blues e non un rocker. Ma che domanda Sonny Boy, ma certo. A proposito, oggi è lunedì, oggi pomeriggio c'è il Puma di Lambrate, non perdertelo. Ain't got a gold mine. Well, the Bernese, the shiv is golden. The shiv is golden. The shiv is golden. Hey, Bernese, oh, look a looky yonder. Well, the sun done gone. Oh, black Betty, bam a lam. Oh, black Betty, bam a lam. Black Betty had a baby, bam a lam. Black Betty had a baby, bam a lam. Damn thing was crazy, bam a lam. Damn thing was crazy, bam a lam. Oh, black Betty, bam a lam. Oh, black Betty, bam a lam. Oh, Betty, black Betty, bam a lam. Oh, Betty, black Betty, bam a lam. Black Betty had a baby, bam a lam. Black Betty had a baby. Chiedetemi cosa avesse preso Nick Cave in compagnia dei suoi Bad Seeds per farsi venire l'idea di riproporre Black Betty in questa versione, ma certamente era roba buona, guarda. Quindi non, nello specifico non so di che sostanze si trattasse, ma tant'è. Questa era la cover di Blackberry interpretata da Nick Cave and the Bad Seeds. Ma veloci, passiamo la linea a Roberto Fricantoni, che ha un servizio importante per i radioascoltatori di questa fascia della giornata, i radioascoltatori sempre in ritardo, un servizio costruito a pennello per voi. Servizio a favore del radioascoltatore, il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Signor direttore, anche oggi devo porgerle le mie scuse e il mio sentito rincrescimento per il mio ritardo, ma le assicuro, le garantisco che è dovuto a ragioni valide. Deve sapere che mentre stavo uscendo di casa per arrivare in tempo qua in ufficio, mi sono accorto che il mio pesciolino rosso aveva un attacco di congiuntivite. Così, ecco, ho dovuto mettergli il collirio goccia dopo goccia e le gocce si perdevano nel resto dell'acqua, quindi avevo difficoltà a verificare che proprio finissero sull'occhio del pesciolino. Shark si chiama, esatto, sì. E si muoveva, quindi faticavo a tenerlo fermo. Quindi lei vedrà poi che ho le dita fasciate. Il pesciolino in questione, ho scoperto, era un piragna. Il ritardatario ritardato. Non dimenticate, una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM. Quel maledetto rivenditore della casa degli animali me la pagherà carissima. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Ragazzi, la rullata, senti qua. Che rullata è? Ragazzi, Rolling Stones, Ruby Tuesday. Che roba, ragazzi. Va bene, 335, va bene cosa, ma dai, non si inizia così uno stacco radiofonico, per favore. 335 100 7777, questo il nostro contatto via SMS. Vi ricordo ancora, non siate timidi, eh? Domani Carla dovrebbe venire a trovarci, quindi fai i tarocchi sui numeri dell'otto, ma volendo, se avete qualche dubbio, qualche richiesta da fare, proviamo, no? Intanto segnalo l'ottima idea di un amico di Milano, Ceo, che propone il tarocco. E ci sta, il tarocco. Allora, a questo non so se crederci, in realtà gli ho telefonato per capire se quello che mi scriveva era vero oppure no, sembra vero, quindi io vi faccio questa segnalazione. Sabato al Ghisa, che per gli amici al di fuori di Milano è il poliziotto, gli ho fatto vedere la patente da vero rocker. Mega sorriso stupito, anche lui ascolta Rock FM e anche lui si lamenta del segnale a singhiozzo, però il verbale me l'ha fatto lo stesso. Ciao patentato 110, grazie per avercelo raccontato. Ringrazio Francesco per la segnalazione. Invece buongiorno PBR, Giovanni Soldini e Pietro Dalì questa mattina alle 3.30 hanno vinto la Transat Jacques Vabre, categoria classe 40. È rock farsi 4.340 miglia, 22 giorni, 13 ore, 22 minuti isolati dal mondo tra tempeste e bonacce sull'Atlantico? E beh, la risposta è sì. Che vuoi che ti rispondo? È ovvio che sì, e complimentoni al buon Soldini, che già ne aveva combinate altre, se non ricordo male, e al collega Pietro Dalì. Questo sì che è rock and roll. Un saluto al gruppo d'ascolto. Ho imparato a spegnere il repeat della sveglia mentre dormo. Mannaggia, così rischio di perdere l'inizio di Pane, Burro e Rock and Roll. Run, run, run, run.

Pepperpe, squillo di trombe, tutrutù, rullo di tamburi, papparapà, squillo di trombette. Siamo arrivati all'appuntamento con i compleanni del giorno. Dopo duri minuti di lavoro è riuscito con la redazione a selezionare qualche compleante di quest'oggi. Sì, facciamo gli auguri a Eugene Ionesco. Nasceva nel 1912, celebre autore teatrale, il teatro dell'assurdo. Esatto, la cantatrice calva. Non faccio la cantatrice calva, la prego, e passiamo a un altro. Nasceva nel 1922 Charles Schulz, fumettista. Cosa ricorda di Schulz? Ricordo soprattutto i Peanuts, Snoopy, Charlie Brown, Linus, Woodstock. Un uomo che ha inventato, che ha dato una svolta al fumetto internazionale. Come lo invidio, come lo invidio, come lo invidio. E noi svoltiamo invece i compleanni. Mi chieda per favore come lo invidio. Come lo invidia? Tantissimo. Svoltiamo invece i compleanni facendo gli auguri a Tina Turner, che nasceva nel 1939. La magica Tina. Sì. Nutbush Seat Limits of Nutbush. Le viene particolarmente bene l'imitazione di Tina, segniamocela che la facciamo diventare manieristica. 1951 nasceva Ilona Staller, l'inimitabile, la pregiatissima Ilona Staller, attrice porno ungherese e parlamentare italiana. Un gran bel pezzo di figliola, Mi mancava Mike Buongiorno quest'oggi, sì. Come va? Tutto bene? Tutto bene, ecco, benvenuto. Quando riesco ad emergere dal corpo e dalla psiche di quell'antipatico di Freak Antonio. E sarà contento allora di festeggiare insieme a noi il compleanno della bella e brava Pamela Prati. Nasceva nel 1958. Che ricorda di Pamela Prati? Ho tutta la sua filmografia. Sì, mi sembra abbia fatto tanti film. Sono un collezionista. Ma cosa ricorda di Pamela? Arrapatissimo. No, non inizi, mi raccomando, Di Pamela ricordo soprattutto le sue notevolissime bocce. No, maestro, per favore, non facciamo così. Non la buttiamo in cacciara tutte le volte. C'è da dire che è una grandissima attrice. E io che l'apprezzo tantissimo. Pamela, auguro. Ti amo. Ti ho sempre amata e sempre ti amerò. E viva Pamela e viva i Prati. Ma non mi viene l'intonazione giusta. Ma soprattutto evviva le sue bocce. Perché parliamo della bocciofila, è vero, dove vado sempre. Basta, maestro! Tutti i pomeriggi! Che c'è? Just south of the Alligator Alley on the Florida Peninsula. And to a certain distinguished resident there, you may know him, Mr. Wayne Cochran. My brother Jake will sing about that town. Going back to Miami. Going back to Miami. Going back to my girl. Going back to my girl. I said I'm going back to Miami. Going back to Miami. Going back to my girl. Going back to my girl. Get back to my baby. Tango in my ho sentito un nuovo gruppo. Si chiama I Sorcini. Ma no, Rogna, i Sorcini sono i fan di quell'umanoide. Si chiama Renato Zero. Ma chi è Renato Zero? Ma come, non lo conosci? È quel topone gigante con boa intorno al collo. Intorno al collo? Ehi, ma deve essere proprio un topo fortissimo per resistere alla stretta d'un boa. Ma no, scemo, è un umano lui. E un boa è un boa di piume rosa. Ma dai, scemo tu. Il boa non è un uccello. Lo sanno tutti che è un serpente. Mannaggia, Frigo, ti devo spiegare tutto.